известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. The problem with the larger overall budget is that it's a job-killing budget. They have buried in that budget some $600 billion in energy taxes, which will affect every single American. So I think we ought to be honest, if we're going to be honest about this budget, it's a higher tax, weaker economy, fewer jobs budget. Tasse alte, meno occupazione e un paese che va alla deriva, così Rush Limbaugh e Newt Gingrich, quello che avete ascoltato adesso era Newt Gingrich, da due angolazioni diverse stanno attaccando sotto i colori repubblicani i provvedimenti presi da Barack Obama per rilanciare l'economia americana in quello che è il principale problema che la nuova amministrazione guidata da Barack Obama si trova a dover risolvere in questo inizio dei lavori, all'inizio appunto del 2009, perché la domanda a cui vogliamo rispondere, provare a rispondere, dare qualche nota informativa in questa apertura di settimana a Jefferson è: che cosa succede dall'altra parte? E la risposta che ci verrebbe da dare dopo i fatti della settimana scorsa è che a volte ritornano, nel senso che la settimana scorsa in tanti si sono chiesti perché al discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato da Barack Obama, con un successo che definirei perlomeno cospicuo, se è vero che all'inizio del discorso il 63% degli americani approvavano Barack Obama, alla fine sembra fossero circa l'80%, quindi i convinti, al di là delle simpatie politiche, a seguire ormai l'operato di questa amministrazione, e che Dio gliela mandi buona, se li saranno detti in molti. Ma che cosa succede dall'altra parte? Perché non è che i repubblicani possono a lungo restare, no, un partito, un'unità, una componente trascurabile del paese, ormai completamente ipnotizzata dalle gesta, o almeno dalle gesta potenziali di Barack Obama. I risultati sono tutti da verificare. I repubblicani qualcosa si devono inventare, e se ne inventano, come si dice in questi casi, di policrome, nel senso che all'assalto, no? All'assalto della grande icona di Barack Obama hanno sbattuto questo governatore, giovane governatore della Louisiana che si chiama Bobby Jindal, discendente di una famiglia indiana, di, se non sbaglio, della zona proprio di Mumbai, arrivati quindi americano di prima generazione, un personaggio interessante, molto pubblicizzato, forse troppo pubblicizzato, che il giorno dopo il suo incarico nell'occasione, che è stato quello di rispondere dal punto di vista della minoranza, dell'opposizione, alla proposta di Barack Obama, è stato distrutto dai suoi stessi compagni di partito e dai suoi stessi giornali allineati su posizioni conservatrici. Gli hanno detto qualsiasi cosa, hanno criticato il suo tono nasale, hanno detto che le sue argomentazioni non decollavano, hanno detto che il personaggio era lontanamente paragonabile per carisma a quello denotato dal populismo sorridente Barack Obama, mentre dice non è più tempo di mettere tende da miliardari nei vostri uffici. Insomma, Jindal non dico che ha ricevuto una bella pietra tombale sulle sue ambizioni di alte sfere politiche, ma qualcosa che gli somiglia. E allora a volte ritornano chi? Ritornano gli estremisti della politica repubblicana. Nella fattispecie rispunta, non se n'è mai andato via, ma rispunta, questa volta sembrerebbe davvero con delle ambizioni che somigliano al politico, lui che non ne ha mai voluto sentir parlare di un posizionamento politico ufficiale. Rispunta Rush Limbaugh, che è il più importante conduttore radiofonico di talk show in America, 3 ore al giorno, a mezzogiorno, per 3 ore intrattiene gli americani, fondamentalmente dicendo quanto fa schifo il modo in cui i governanti li governano. È sempre stato spacciato, presentato come un anarchico di destra, la sua specialità è il cosiddetto ranting, no? Il lamento continuo, costellato magari di numeri, dati, uno ci si perde un po' dentro, magari guidando la macchina può essere anche una forma di intrattenimento, ti fa venire un po' la nuvola nera sulla testa, insomma. Ma Rush Limbaugh adesso improvvisamente sta diventando uno speaker invece rispettato e legittimato addirittura all'interno del partito, se è vero che ha tenuto a Washington il discorso principale in questo convegno chiamato Conservative Political Action, in pratica un convegno inventato proprio per trovare nuove strade per ricollegarsi, per riconnettersi con l'America conservatrice, la Right America, no? Un po' sbandata addirittura, come danno segno importanti anche esponenti repubblicani, Schwarzenegger, Charlie Crist, addirittura un po' ipnotizzata dallo stesso Barack Obama. E al suo fianco rispunta un nome che, se siete veterani della politica americana, almeno a livello degli anni 90, ve lo ricorderete sicuramente, ed è quello di Newt Gingrich, che fu lo speaker della Camera nei lontani anni 90, ai tempi di Bill Clinton, quando i repubblicani a sorpresa si ripresero durante il secondo mandato di Clinton il controllo del Congresso, e Gingrich fu per almeno 3 anni un personaggio importante. Un personaggio trasgressivo, un personaggio innovativo, il personaggio che inventò quel contratto con l'America che vi suonerà un po' nelle orecchie, no? Perché c'è stato anche poi un contratto con gli italiani, che proprio a quel contratto con l'America si ispirava. Poi è stato spazzato via un po' dalla bizzarria di alcune sue posizioni, un po' da alcuni guaiucci che ha combinato a casa propria, insomma, nella gestione dei propri affari privati. È sparito per un po', si è occupato di televisione, faceva dei programmi neanche male di storia americana, soprattutto concentrati sulla guerra civile, sulla guerra di secessione, e poi poco a poco, naturalmente, al tramonto di George W. Bush, ha cominciato a riavvicinarsi a Washington, ha cominciato a riavvicinarsi alla ipotesi di riacquisire una leadership repubblicana, e in questo momento è un nome molto chiacchierato, tant'è vero che sulla copertina del magazine del New York Times, l'inserto del New York Times, che è importante, ed avere una copertina lì vuol dire essere esposti a tutta America e godere di tutti i talk show possibili immaginabili, appare proprio la bella grinta, il faccione ingrugnato di Newt Gingrich, con la scritta Newt again, Newt di nuovo, Newt ritorna. Si parla del suo piccolo think tank che si è costruito, il suo piccolo laboratorio teorico, così, che si è costruito a Washington, a 2 passi naturalmente dalla Casa Bianca, e secondo il New York Times si dice addirittura che Gingrich si trova di nuovo al massimo della sua influenza nella Washington conservatrice. Gingrich si muove dopo anni di silenzio, critica Obama, dice che tasse più elevate, un'economia più debole e meno posti di lavoro, come abbiamo ascoltato in apertura, descrivono una distanza tra le parole e la realtà, e c'è chi ipotizza che alla fine la destra americana in questo momento, se vuole trovare un personaggio credibile di leadership, dovrebbe andare a cercare proprio lui, che comunque è appunto spostato molto a destra nel disegno di un partito che evidentemente a questo punto ha bisogno di distinguersi. Detto questo, invece, un paio di note su Barack Obama, che per ora fa sapere, anche per voce di Rahm Emanuel, il suo capo, il capo staff della sua squadra, che ben altri sono i suoi problemi che gli avversari repubblicani. Anzi, Emanuel ha detto: ah sì, noi stimiamo molto Rush Limbaugh, è evidente la percentuale ironica di questa battuta. Sì, abbiamo saputo che lui ci ha augurato di fallire, però almeno quando glielo abbiamo contestato non si è tirato indietro, ha confermato, e quindi ci complimentiamo con lui per la sua onestà. Evidentemente non è da Rush Limbaugh che si aspetta grandi guai, più probabilmente se li aspetta da Wall Street, dalle aperture dei mercati e da quello che sta succedendo e che succederà in questa settimana, dove peraltro si annuncia anche una intensa attività internazionale per la amministrazione americana. Si avvicina anche l'incontro, oggi avverrà l'incontro con Gordon Brown, che alla fine ha vinto lo sprint fra i leader europei per arrivare prima alla Casa Bianca, ha battuto tutti i suoi concorrenti, Sarkozy, Angela Merkel, staccati i nostri rappresentanti. È arrivato prima Gordon Brown, pare che presenterà addirittura, per fare la figura del primo della classe, si presenterà da Obama con un progetto suo intitolato, scriveva il Time di Londra ieri, il New Deal mondiale. Qui ormai Roosevelt si girerà nella tomba, perché si fa a gara a parlare, a riutilizzare l'espressione New Deal in questa, insomma, grande ventata di statalismo che sembra investire tutto il mondo. Poi vi ricordo che il 2 aprile il G20 a Londra sarà l'appuntamento ormai considerato chiave da tutti i leadership, da tutti i leader, da tutte le amministrazioni dei paesi occidentali, per trovare soluzioni alla crisi mondiale, come se poi nel corso di un vertice fosse possibile trovare soluzioni di questo genere. Siamo ben felici di organizzare vertici tutti i giorni. Ancora una notizia, sempre Gordon Brown avrebbe paragonato Barack Obama, così per aprirsi la strada, no? Per mettere una corsia rossa davanti ai suoi piedi, avrebbe paragonato Barack Obama a Winston Churchill. Ha detto che gli ricorda il patrimonio culturale di Winston Churchill e la forza propulsiva dei suoi ideali. A forza di forza propulsiva, Barack Obama avrebbe trovato finalmente un ministro della sanità come si deve, dopo che il suo amico Tom Daschle ha abbandonato per guai fiscali. Il nome è quello di Kathleen Sebelius, tra l'altro anche vicina a una nomination democratica alla Casa Bianca ai tempi delle primarie, una donna molto in gamba, governatrice del Kansas dal 2003. La notizia della sua designazione giunge il giorno dopo l'annuncio da parte di Obama del bilancio 2010, che prevede, come sapete, 634 miliardi di dollari su 10 anni per il finanziamento delle riforme nel settore sanitario, per l'assistenza e per l'estensione dell'assistenza medica, cifre che fanno tremare le vene agli economisti americani, che si chiedono da dove salteranno fuori questi soldi. Chiediamo scusa al nostro adoratissimo Nick Drake, ma qui sulla pagina di apertura, home page di CNN, c'è un bell'articolo che dice: quanto si chiede, caro Emiliano, quanto è potente Facebook? così attribuendo, ma dice molto. Però insomma si chiede anche se Obama deve usare Facebook più di tanto per spiegare la sua politica degli americani. Io direi di no, forse insomma, altro pensare di più importante, sì, E poi usiamo altri mezzi. Invece Facebook, delle agili, veloci, piccole e dinamiche trasmissioni come la nostra lo usano ben volentieri, perché ci permette di connetterci con voi in tempo reale, di sottoporvi temi, di ascoltare le vostre risposte e di avere un filo diretto che dura 24 ore al giorno. Abbiamo voluto aprire la settimana parlando di un tema che è in circolo nelle guerre, nelle pacifiche guerre culturali americane, razza o classe, perché ricorderete, ne abbiamo già parlato, il nuovo ministro della giustizia americano, che è il nero Eric Holder, ha chiesto ai connazionali di accettare di confrontarsi con la questione della razza con più coraggio. In risposta però l'editorialista The Economist, che è un inglese d'America, si chiama Adrian Warridge, ha controproposto invece una discussione più vigorosa attorno a un tema diverso, non tanto razza ma classi sociali, come cambiano le classi sociali, cosa questo cambiamento comporterà. E allora noi diciamo, portiamolo un po' più in qua, no? il dibattito con le nuove realtà. Voi come la pensate, come Holder, questione razza, o come Woolridge, questione di classe? Il disagio della multirazzialità è un effetto collaterale magari di quel ridisegno sociale che questa crisi, abbiamo la netta sensazione, imporrà sempre più decisamente? Allora, come sempre c'è un ricco pacco di commenti su cui riflettere, su cui meditare. Cominciamo da Gabriele Senza Pietà, che dice: è inutile discutere di questioni razziali, i razzisti esistono ed esisteranno sempre, purtroppo gli puoi fare tutti i discorsi del mondo, non è con le parole che si risolvono questi problemi ma con i fatti, e non voglio sapere quali sono i fatti a cui si riferisce Gabriele. Poi c'è Riccardo che invece scrive: negli Stati Uniti le due questioni vanno per forza di cose affrontate separatamente, dato il peso enorme che la questione razziale ha avuto nella storia di quel paese. E invece Hermes la pensa in modo completamente opposto, perché dice: non ci scordiamo che negli Stati Uniti i concetti di razza e di classe sono ancora profondamente collegati. Matilde si dichiara dalla parte di Woolridge, dice: ad esempio in Italia credo che quello che spaventi di più sia la perdita di lavoro da parte dei benestanti e l'avanzamento sociale dei più poveri. Giulio è contrario al paragone Italia-America, sono due cose distinte, in Italia abbiamo un'immigrazione da pochi anni e il nostro non è razzismo ma una paura di culture che non conosciamo. Beh, su questo ci sarebbe da aprirlo il discorso. Mukeba: razza e classe per molto tempo continueranno a essere una discriminante sociale, gli ultimi saranno ultimi se i primi sono irraggiungibili. Allora, qui c'è Mariano invece, che anche lui è con Woolridge, perché dice: sono con lui per questioni di priorità, l'elezione di un uomo di colore alla presidenza degli Stati Uniti è stata già una risposta forte alla questione razziale, quindi bisogna passare al discorso di classe. Invece c'è Ettore da Davenport, ci scrive abitualmente, noi abitualmente lo citiamo, che evidentemente non si fida di Holder, perché dice: Eric, lo chiama affettuosamente così, non vuole aprire un dibattito sulle razze, lui pensa a quella afro essenzialmente, cioè quella di Obama, non gliene importa nulla delle altre. Ancora Fabio: no, purtroppo il disagio della multirazzialità, come lo chiamate voi, esisteva anche quando la stratificazione sociale non era messa in discussione in nessun modo, anzi era ben più radicato e profondo. Flavio dice: non è problema di razze che si susseguono nei piani alti, ma una questione di menti. Mauro si dichiara d'accordo con Amartya Sen: ogni individuo fa parte di più categorie, per cui veltronianamente, lo so è demodé, dice Mauro, dico l'uno e l'altro, questo è pensare globale e agire locale. Bello questo di Mauro. E qui c'è Luigi, molto interessante, che dice: ho visitato più volte sia gli Stati Uniti sia l'Inghilterra, quello che mi ha sempre stupito degli americani è la separazione. La sera a Londra invece è normale vedere in un pub o fuori un capannello di una decina di persone di varie etnie che scherzano tra di loro. Concludo con due. Fabrizio, che dice: negli Stati Uniti e in altre nazioni multirazziali razza e classe coincidono, il problema va affrontato, l'approccio etico-morale manifestato da Holder ti impone di partire dalla accettazione della multirazzialità come valore e risorsa imprescindibile. Infine voglio citare anche un estratto da Roberta, che dice: Personalmente la penso come Holder, ma apprezzo la proposta di allargare lo sguardo avanzata da Woolridge. Io sono d'accordo con te, Roberto. Secondo me è molto moderno l'approccio di Woolridge. In Europa, scrive ancora Roberta, e soprattutto in Italia stiamo subendo attacchi mediatici da chi vuole creare confusione tra causa ed effetto, attribuendo ad esempio agli immigrati responsabilità che non sono proprie di questi, nemmeno se intesi come classe sociale, ma piuttosto il risultato di politiche nazionali errate. Un discorso sofisticato che apprezziamo. Ci risentiamo tra poco dopo le notizie di borsa. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Ecco, dunque, in televisione su Fox c'è quel disgraziato di Major Garrett, il capo reporter dalla Casa Bianca, che sta sotto la neve, perché fare il reporter, cari ascoltatori, vuol dire anche questo: eroicamente trasmettere. Però non fa una piega, sotto la neve col ciuffo perfettamente, gliel'hanno blindato, quello gliel'hanno vetrificato. Ecco, si muove il ciuffo. Ah, è passata una folata di vento. Sta dando l'annuncio della sancita elezione di Kathleen Sibelius a ministro della sanità dell'amministrazione Obama, sempre nella speranza, insomma, è un governatore, quindi dovrebbe essere piuttosto scrutinato. Non ci auguriamo non le trovino anche a lei guai fiscali e scontrini dimenticati, perché ormai l'amministrazione ha un mese e mezzo, la sanità è ancora lì che galleggia di vacante. Diamo un po' di notizie in avvicinamento al tema, un tema caldo, vai. Allora, se l'America ha problemi col fisco, almeno parte dell'America, la Cina si preoccupa soprattutto del Tibet in questi giorni. Tibet, che è stato anche piatto forte della settimana scorsa di Jefferson, e forse tornerà inevitabilmente nei prossimi giorni, perché si avvicinano delle scadenze importanti: l'anniversario, il primo, delle rivolte di un anno fa, nel marzo appunto del 2008, alla vigilia delle Olimpiadi, e poi i 50 anni dalla fuga del Dalai Lama in India. Ieri il Quotidiano del Popolo, quindi l'organo ufficiale del Partito Comunista cinese, è tornato all'attacco dicendo che il problema del Tibet riguarda la sovranità della Cina, anche se spesso è mascherato da problema etnico, religioso, ambientale o legato ai diritti umani. E poi questo editoriale che vi sto leggendo a stralci naturalmente del Quotidiano del Popolo si riferisce a degli uomini politici, non meglio precisati, stranieri, quindi occidentali, che sfruttano la questione del Tibet per raggiungere il loro obiettivo di opprimere e contenere la Cina. Mi sembra che qui siamo veramente in uno scenario forse un po' bizzarro, un po' fantasioso da parte dei cinesi. Oh, avete una azienda, magari un'azienda statale, una grande sigla nazionale da rilanciare e non sapete come fare? Mi viene in mente, che ne so, l'Italia, i Ferrovie dello Stato, tutti quegli oggettini. Continua. La RAI. Chiamate quelli che hanno fatto tanto per Barack Obama. La società in questione si chiama Blue Digital State ed è quella che ha inventato, praticamente ha reso possibile il formidabile successo telematico di Obama. Bla bla bla, sapete di che cosa si parla, tante volte ne abbiamo parlato. Le poste inglesi, le Royal Mail, che vivono, dopo essere stati quelli che consegnavano, caro Emiliano, io sono vecchio per dirlo, il giorno dopo, sempre, la lettera spedita da dovunque, ecco, adesso non lo sanno più fare e hanno chiamato la Blue Digital State per riuscire in un successo del genere. Pare che la campagna sia già partita in modo molto aggressivo, si sono messe in buone mani, no, buon intenditore. Certo. Allora adesso parliamo un attimo di Wen Jiabao, che ha fatto una cosa molto, molto carina, insomma, questo potente uomo cinese, il secondo più potente dopo Hu Jintao, perché lui è il primo ministro, 67 anni, imperturbabile, si è concesso, caro Stefano, 2 ore in chat sabato, quindi ha passato il sabato a rispondere ad una trentina di domande dei cinesi internauti. Su Facebook. Penso. Pare che siano arrivate 50.000 richieste di domande per Hu Jintao, per Wen Jiabao, scusate, in 2 ore si sono collegate 300.000 persone, quindi è stato veramente un forum allargatissimo. Nel quale Wen Jiabao ha parlato di cose serie come la disoccupazione, la crisi, la riforma della sanità, però ha anche detto del suo amore per esempio per la cucina, nella quale si diletta a lungo nelle pause in famiglia, e poi ha parlato dell'ormai famoso episodio di Cambridge quando uno studente gli ha lanciato una scarpa addosso, imitando poi il gesto del famoso giornalista iracheno contro Bush nella sua ultima visita in Iraq. E a proposito di forum, a questo punto parliamo di un forum invece più ufficiale, visto i nomi che partecipano: Hillary Clinton, Silvio Berlusconi, si sono incontrati tra l'altro i due, un numero imprecisato ma elevatissimo di leader internazionali per discutere di Gaza. È in corso questo vertice a Sharm el-Sheikh, il tema sono gli aiuti a Gaza, ma naturalmente a margine tanti sono i temi che si discutono, certamente non ultimo la sistemazione di un governo israeliano che renda, come dire, fluida, accettabilmente fluida la situazione. All'indomani della comunicazione da parte di Barack Obama dell'intenzione il 31 agosto dell'anno prossimo di ritirare le truppe, almeno in buona parte, circa 2/3 dal fronte iracheno, lasciando però questo nutrito gruppo a sancire che le cose vadano come si desidera, insomma, argomenti medio orientali per i quali chiamiamo in causa un nostro abituale interlocutore, ovvero Alessandro Politi, il direttore dell'osservatorio strategico di Nomisma, esperto di problemi di sicurezza, commentatore strategico per vari giornali tra cui Il Messaggero e Il Sole 24 Ore, lo ascoltate spesso anche qui da noi. Alessandro, buon pomeriggio. A voi buon pomeriggio. Allora, prima di tutto vorrei un tuo parere su quello che sta andando in scena a Sharm el-Sheikh, dove purtroppo non ci hanno invitato, quindi non possiamo godere direttamente, ma parecchi addetti ai lavori, anche i nostri amici che consultiamo spesso, esprimono un estremo scetticismo sia dal punto di vista operativo di questa riunione, sia degli echi che si sentono più o meno, che riguardano appunto Israele e arrivano poi a toccare fronti ben più delicati. Tu come che aria annusi a riguardo? Ma non l'annuso, perché sto come voi a Roma, devo dire non ci stiamo perdendo nulla di memorabile. Questo è il senso del discorso. E se fosse qualcosa di memorabile vorremmo poi vedere i fatti, perché di dichiarazioni o anche di denari promessi, poi i soldi è facile prometterli ed è difficile poi versarli. È vero, Alessandro, in questo caso poi se uno va a leggere un po' più a fondo, va, non so, dentro l'agenzia o dentro gli articoli, verso la 40-50esima riga ci si accorge che la cifra, no, lanciata nel titolo poi è diluita in 5 anni con condizioni e quant'altro. Hai ragione in questo, è e vero? Poi molte promesse sono fatte da stati indebitati. Certo. Per cui uno vorrebbe capire con i soldi di chi. Ma questo può anche essere un dettaglio. Politicamente credo ci sia un dato che è invece solido. Allora, sono stati costruiti ormai 15.000 unità approvate e altre 58.000 che aspettano approvazione di case di coloni nella Cisgiordania. Certo. Questo è un altro piano del Ministero per gli alloggi, e questo è chiaramente qualcosa che va contro gli accordi internazionali, la legge, lo status di potenza occupante. E che chiama in causa il nuovo governo israeliano, semmai riescono a farlo. Certo, e qui è da Oslo che si va avanti a costruire, perché si vuole creare una situazione di fatto. Certo, certo, certo. E questo è un dato solido su cui sarebbe interessante capire, non a questo vertice che è molto esplorativo se vogliamo, ma dopo, che cosa veramente pensano gli stati che desiderano un cosiddetto processo di pace. Bene, fatti anziché promesse. Vorrei un tuo commento anche sulla comunicazione di Obama di venerdì relativa al ritiro, con però insomma una serie di postille che rendono, che in un certo senso hanno reso abbastanza infelici alcuni democratici del Congresso, che si sono espressi con qualche perplessità al riguardo, ma insomma comunque una strada segnata. È veramente una strada segnata o è più che altro così un annuncio poi talmente possibile, passibile di correzioni, che magari somiglia quasi a niente? Che cos'è? Non credo convenga a nessuno che stia nella sala ovale fare degli annunci non veritieri, perché la permanenza dei soldati in Iraq costa. Certo. Dopodiché, quanto rapidamente, come e con quale permanenza, da un lato ogni presidente si vuole mantenere le mani libere per affrontare imprevisti. Dall'altra non è che si spostano 150.000 persone rapidamente. La logistica, quella è, anche quella americana, ha i suoi limiti e quindi ci vuole del tempo. In che cosa consiste, proprio dal punto di vista logistico, un ritiro di questo genere? Che cosa vuol dire? Pensa semplicemente che vanno preparate le navi per reimbarcare questa gente con i suoi equipaggiamenti. Giusto, certo. Giusto così, per avere un'idea. Poi certo. Vanno portati gli equipaggiamenti pesanti. Tutto questo non vola in genere. Questo prende via terra e va via nave. Quindi sarà un ritiro via mare. Possiamo, immaginare un ritiro via mare. Diciamo, il grosso delle forze si spostano sempre via mare. Per questo che il potere navale è considerato così interessante da chi vuole intervenire nel mondo. Perché per aria si fanno delle cose rapidissime, ma poi quello che si trasporta come tonnellaggio è sempre molto poco. Ecco, e con la tua esperienza, per come te lo immagini e per come ci puoi aiutare a immaginare il 31 agosto, che cosa sarà? Una specie di sbarco in Normandia al contrario? Cioè, questa cosa viene fatta mese dopo mese. Mese no, dopo è un quello che noi chiamiamo in modo molto colorito, si anemizza no, la forza d'occupazione. E quindi piano piano parte prima un battaglione, poi due, poi tre, insomma via via c'è un flusso costante. Una lenta emorragia, insomma. Beh, nemmeno tanto lenta se uno pensa che insomma alla fine 100.000 se ne vanno via e contemporaneamente parte di questi 100.000 vengono spediti in Afghanistan, insomma sì. È una faccenda abbastanza impressionante dal punto di vista logistico. Certo. E per concludere, comunque, come hai reagito all'annuncio di Obama? Qual è stato il tuo punto di vista? Il candidato è diverso dal presidente e poi bisogna vedere, e questo veramente è la questione cardine, come il presidente vuole affrontare il rapporto tra Stati Uniti e spese della difesa. Al momento gli Stati Uniti sono il 45% di tutte le spese della difesa mondiale. Siamo molto, molto, molto al di là di quanto sia ragionevole, anche per mantenere una supremazia statunitense. Grazie. Di andare a toccare questi interessi rischia veramente che poi uno si trova un cecchino per strada, insomma, questo è un dettaglio da non trascurare. È un terribile dettaglio. Grazie Alessandro Politi. Queste considerazioni, vi ricordo, 31 agosto 2009 è una data che un mese dopo l'inizio della sua presidenza Barack Obama ha inteso sancire, definire per il ritiro dall'Iraq. You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on innanzitutto una errata corrige, mi sono impasticciato e confuso prima disannunciando l'intervento di Politi. 31 agosto 2010 naturalmente è la data del ritiro delle truppe americane dall'Iraq annunciata da Barack Obama al termine dei famosi 16, che poi sono diventati 18-19 mesi dall'insediamento alla Casa Bianca, 31 agosto 2010, circa 100.000 dei 150.000 soldati americani in Iraq dovrebbero o tornare a casa, come diceva Politi, invece prendere la prima a sinistra e fermarsi in Afghanistan. Adesso noi invece ci ritiriamo più verso i nostri territori, perché la storia di cui ci vogliamo occupare oggi in chiusura è italiana, riguarda l'Italia, riguarda anche quel discorso razza o classe, no? Di cui discutevamo all'inizio nello spazio di Express Yourself del nostro sito di Facebook, pagina di Facebook, in cui vi proponiamo temi di discussione. È legittimo discutere anche in Italia di razza, o sarebbe meglio più modernamente discutere di classe? È avvenuto qualcosa a Prato. Io vi leggo la nota del presidente al Senato del PDL Maurizio Gasparri, che dice: liberare Prato, chiedo al governo e direttamente ai ministri Sacconi e Maroni un intervento straordinario impiegando forze ingenti per espellere le migliaia di cinesi clandestini giunti nella città toscana e chiudere le attività illegali svolte dai cinesi nel tessile. Schiavismo, evasione fiscale e contributiva, violazioni di ogni tipo avvengono alla luce del sole, sfidando lo Stato e la legalità. Sulle pagine del Corriere della Sera di ieri c'è un grosso articolo al riguardo a firma di Sergio Rizzo, però poi c'è anche una breve intervista con uno scrittore ben noto in Italia, si chiama Sandro Veronesi, che è di quelle parti e che la pensa diversamente. Vi leggo solo il titolo, se non avete letto l'articolo: I cinesi hanno portato lavoro, ed è un articolo molto più morbido. Dice: non hanno rubato lavoro, semmai lo hanno portato, anche loro soffrono della concorrenza di Cina e Corea. E quanto a salvare il distretto tessile, dice: come fai a combattere la concorrenza di paesi dove producono la stessa pezza a un quarto del costo in un terzo del tempo? Noi abbiamo chiamato per discutere dell'argomento un veterano, no, del settore, si chiama Antonio Gino Lucchesi, classe 28, istituzione del tessile della zona, nell'esecutivo di Confindustria negli anni 80, vice sindaco tra il 95 e il 2000. Sabato ha sfilato alla manifestazione dicendo che non era né con né contro i cinesi. Allora, perché forse questa manifestazione non era contro i cinesi, come sembra di dedurre dalle parole, sembra di poter dedurre dalle parole di Gasparri? Chiediamolo a lui. Buon pomeriggio, Lucchesi. Anche a voi. Allora, era contro i cinesi o no questa manifestazione? Siamo chiari? Assolutamente no. Il problema è ben complesso. Comunque, non era per i cinesi. Assolutamente no. E mi aggiunge anche sinceramente, cioè anche di stomaco non era contro i cinesi. No, assolutamente. E ci eravamo dati appuntamento dopo tante discussioni, dopo tante ipotesi, per segnalare, neanche manifestare in opposizione, per contrastare, non c'era niente da contrastare, c'era solo da segnalare al governo nazionale, al governo regionale, che Prato, che per tanti anni, nella sua storia, ha sempre cercato di risolvere i problemi, le crisi, le difficoltà di lavoro con propri mezzi e con propria impegno, ora ritiene di non potercela più fare da solo, anche perché anche perché i problemi non sono più i soliti problemi di tipo economico e di tipo organizzativo, ma sono problemi che nascono da una crisi internazionale sulla quale noi possiamo ben poco. Certo, ecco. Certo. Ma mi tolgo una curiosità, si è fatta questa manifestazione, ma non è che a livello governativo e anche a livello di istituzioni locali tutto quello che accade a Prato e tutto quello che accade a Prato e che non dovrebbe accadere perché irregolare, se non addirittura illegale, non si sapesse prima, no? È una situazione della quale poi, anzi, viene addirittura spesso additata, ad esempio, no, di questa integrazione, non integrazione, ma insomma ciò che accade in zona da voi da un numero cospicuo di anni è cosa nota. Dov'è che stanno cambiando o possono cambiare le cose? Senta, dunque, lei si riferisce anche al problema della presenza massiccia dei cinesi a Prato, certo, no? Certo. Che sono dal 12 al 13% della popolazione pratese. E non è poco, certo. Ormai. E sono circa, si reputa che su 5 cinesi ce ne siano 2 che sono clandestini o quantomeno illegali, nel senso che non hanno permesso di soggiorno. Certo. Allora, questa è una realtà. Io l'ho chiamato in quel libro che fu pubblicato, presentato pochi mesi fa, I cinesi non muoiono mai. I cinesi non muoiono mai, certo, abbiamo presentato. Riccardo Stagliano e Raffaello Oriani. Certo. Io fui intervistato allora e mi domandarono se i cinesi erano una risorsa o erano un problema, perché la città è divisa un po' su questo. E io dissi sono una risorsa problematica. Perché in effetti i cinesi saranno sempre di più, io credo, una risorsa nella misura in cui loro e noi ci avvicineremo, non per integrarsi, perché credo sia questo un problema di generazioni future, non immediate, ma per comprendere loro che debbono stare nelle regole indispensabili di un vivere, di una convivenza civile. E noi per cercare di capire non solo le loro difficoltà iniziali, ma anche la loro cultura, il loro modo d'essere, il loro modo di vivere e di lavorare. Quindi loro debbono imparare a lavorare nei nostri mezzi. Credo che ci sia mancato in questi anni la capacità reciproca di dialogare, di modellare in qualche modo una convivenza. Ecco. Beh, mi sembra molto ragionevole quello che lei sta dicendo, Lucchesi. Ma senta un po' per concludere, perché la trasmissione è in chiusura, ma senza i cinesi la crisi, i problemi ci sarebbero lo stesso? Sarebbe esattamente la stessa, forse anche forse in qualche caso anche un po' peggio, perché, questo mi preme dirlo, si è fatto una grande confusione, si parla dei cinesi. Qualcuno come Gasparri è stato messo indubbiamente fuori strada da chi l'ha guidato anche nella visita a Prato, perché lui, quello, mi sembra che, non so se ha letto quello che lui ha detto a proposito, che chiederà a Saccone e Maroni un intervento, certo, straordinario, letto, sì, certo, impiegando ingenti forze, certo. Ecco, questo è proprio quello di cui non c'è neanche bisogno, perché bene. Si sta facendo tutto quello che occorre per rimettere in quadro la cosa. Ma quello che a noi ci farà chiudere, ci ha fatto chiudere fino ad ora, se non prendiamo posizione, è la Cina, non i cinesi di Prato, semmai i cinesi di Cina, perché sono loro che stanno conquistando tutti i mercati del manifatturiero. E questo è il punto. Complice il WTO, perché il nostro commissario europeo Pascal Lamy, che ora è segretario del WTO, non ha mai capito questo problema che noi l'abbiamo cercato di far capire. E che è un problema ben diffuso e molto più grosso di quello sottolineato da Gasparri nel suo intervento. Grazie per quanto ci ha spiegato, anche in termini molto ragionevoli, Antonio Gino Lucchesi. E chiude la puntata di oggi di Jefferson. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione, Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte la parte tecnica. Su Facebook ci trovate a redazione Jefferson 2 o a Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Chiudiamo rapidi perché siamo in ritardo. Appuntamento alle 4, attorno alle 4 domani qui su Radio 24.